Festival Sociale delle Culture Antifasciste. Dal 29 maggio al 2 giugno, Parco delle Caserme Rosse, Corticella, Bologna. Sabato 30 maggio, ore 11, lezioni di memoria a cura di Daniele Biacchessi. Ore 11, antifascismo e territori, prima parte, tavolo di discussione sulle pratiche antifasciste a livello territoriale, con dossier sui gruppi di estrema destra a Pisa, a Bergamo, Brescia, Bologna e Milano. Presentazione del progetto ecn.org/antifa. Osservatorio nazionale sulle aggressioni di matrice fascista in Italia. Ore 14. Assemblea del tavolo LGBTIQ. Prima parte. Ore 15. Movimenti neofascisti e della destra radicale in Italia. Dibattito intorno ai movimenti neofascisti di oggi con Marco Fincardi, Saverio Ferrari, Claudio Lazzaro, autore di Nazi Rock, Valerio Evangelisti, Giacomo Russo Spena e Luca Alessandrini. Ore 16. Documentario Allarme siamo fascisti a cura della scuola di musica popolare Ivan Ilic. Ore 16.30. Comunione e segregazione. Contributi per una lettura delle alleanze clerico-fasciste. Seminario a cura di Facciamo Breccia e Circolo Giordano Bruno di Milano. Ore 18. Apre il tavolo sul revisionismo, dalla pacificazione alla parificazione, è iniziato l'attacco finale all'antifascismo. Dibattito sulla proposta di legge 1360. A seguire, dibattito sul revisionismo, revisionismi, memoria storica, con la partecipazione di Sandy Volk dell'Università di Trieste. Poi, il sangue dei vincitori, saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra, di e con Massimo Storti. E ancora, la comunità escludente di Pietro Stara. E infine, i fantasmi di Vaivar, di e con Marco Rossi. Ore 18.30, dibattito con Porpora Marcasciano, Pia Covre, Beatrice Busi su prostituzione, diritti dei sex workers e politiche securitarie. Ora 19.30, una delle tante, recital per voce narrante tratto dal libro Cara Senatrice Merlin. Ore 20, Yalo Malò in concerto, gruppo folk con sonorità da tutto il mondo. Ore 20, incontro, dibattito sul teatro e antifascismo. Ore 21, Daniele Biacchessi presenta Il Paese della Vergogna, storia dell'Italia contemporanea. Dalle 22.30, i grunge in concerto. Dalle 23.30, canto sociale, rassegna di canto anticlericale, antifascista e anarchico, a cura dell'Hard Coro De Marchi di Bologna. Dalle 23 in poi, Cineforum. Dalle 23.30 fino a mattina, serata di musica hardcore e punk al Lazzaretto autogestito. Con gli Impact, Place for Murder, Cruel Face of Life, Ebola, Seven Bloody Hopes, Banda Armanda, La Resistenza, Fugaci, Kane, Balotta Continua e altri ancora.